YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buongiorno e bentornati al RadioTube della domenica. Come buongiorno. Sempre, insomma, parliamo del perdibile, dell'imperdibile, della rete, però insomma la domenica ci concentriamo un po' così sulle grandi stars. E questa volta non parliamo di stars della musica perché mancano ci siamo quasi 10 Daniele, ma che meraviglia, 9, sai che io perdo il conto, però manca pochissimo all'evento, dai, che bello, i mondiali piacciono a tutti, lì davanti alla televisione a luna di notte, che bello, e sarà il primo mondiale in cui non solo frittatone rutto libero, come da citazione cinematografica, è cinema sì, Daniele, è cinema e però avremo anche tablet. Smartphone, perché non solo guarderemo le partite ma le twitteremo anche. Sì, certo, twitteremo le partite, non ci avevo pensato. Guarda, il primo mondiale. È vero, al tempo dei social network. Ci sono già quelli usciti che non sono stati convocati. Quelli twitteranno di più o di meno? E chi lo sa, chissà se avranno una policy per twittare. Pensa a quelli che all'ultimo non sono riusciti a prendere la convocazione finale. Guarda, io sai che ogni volta me lo chiedo, ma poi c'è una... Che mamma dici? Mia, che paura. Quando sei lì e poi gli altri partono per il Brasile e tu no. Sì. Però il calcio è fatto di storie, quindi forse nello spazio dei 140 caratteri, tema, te, titolo, te, caro. È abbastanza caro. Non ci stanno le storie. Ma chi lo sa, ne parliamo, non ne parliamo solo io e te, abbiamo un ospite, anche per questo RadioTube della domenica. A me piace tantissimo il suo account, chiocciola Giudebellis, la sua bio su Twitter è il giornale vice direttore, barese a Milano, calcio, America, su Il Foglio è Beppe Di Corrado, scrive anche su Studio. Buongiorno Giuseppe De Bellis. Buongiorno a voi. E dopo tutte queste cose... Eh sì, perché manca ancora una cosina. Sì, ma lavora parecchio, cioè, mamma mia. Io non so la moglie come la prende. La mia bio di Twitter a tre parole basta. Eh sì, ma lui lavora. Perché? Sì, bravo. Perché lavori così tanto? Cioè, cosa stai per fare? Sto per fare una cosa, forse la cosa più bella di tutte, tra tutte quella che non c'è nella bio. Guarda ma che lo scriviamo a Sallusti, Che presto ci sarà. No, ma anche lui sa che questa è una cosa bellissima, quindi si aggiungerà questa alla bio, ma dovrò togliere qualche altra cosa perché sennò non ci sta, ed è una nuova iniziativa editoriale, è una nuova iniziativa di carta, pensate un po'. Di carta. Beh, una follia, una nuova idea. Così, è bello, mi piacciono i matti. La carta resta. E cosa su questa carta qui cosa resta? Su questa carta restano le grandi storie di calcio e di sport, che è esattamente quello che dicevi tu poco fa, Daniele, non ci stanno in 140 caratteri, con tutto lo sforzo che possiamo fare ci vuole più spazio, quindi la carta è ancora il mezzo migliore per raccontare le storie, e le storie in generale e le storie di sport in particolare. Come si chiama e quando arriva e qual è la differenza con quello che c'è già? Si chiama 11 e con un sottotitolo molto particolare, perché il sottotitolo è Il calcio è cultura. L'Italia ha inventato il racconto culturale dello sport e poi l'ha un po' lasciato agli altri, e noi vogliamo riportarlo. Quindi arriva più o meno con il mondiale, no? Arriva il 6 giugno in edicola e in libreria. A questo punto dobbiamo vedere se è preparato, però. Adesso te ne chiederemo un po'. Intanto però io voglio tornare a questo argomento sul quale poi ti voglio anche un po' sfruculiare, un po' stimolare, perché sarà davvero il primo mondiale social. Qualche giorno fa io sono stata alla presentazione della squadra, loro l'hanno proprio presentata come squadra, di Sky, che come sappiamo insomma trasmetterà tutte le partite del mondiale. Ne ho approfittato perché c'erano tutti i commentatori, questi ancora ai tanti ex calciatori. Guarda caso da lui ha iniziato, secondo me c'è... Beh ragazzi e ragazze, ma anche ragazzi, insomma, Gianluca Vialli. Allora, Gianluca Vialli, adesso non vorrei perdermi troppo nelle parole nel raccontare che cosa sia ancora questo bellissimo ragazzo, ma vorrei riportarvi a questa riflessione sul primo mondiale social. Allora, a Gianluca Vialli abbiamo chiesto che cosa farà, cioè il primo mondiale social, lui cosa farà? Twitterà, non twitterà? Vialli favorevole. Beh, sì, nel senso che dovremo twittare e dovremo postare e comunque avremo l'opportunità anche di ascoltare, comunque di leggere i commenti che speriamo siano insomma positivi e che saranno critici, speriamo che le critiche siano costruttive, però c'è sempre qualcosa da imparare quando offri un servizio e poi è chiaro che devi anche ascoltare diciamo il customer, il cliente e capire com'è andata e fare qualche variazione in corsa, però siamo tranquilli in questo senso, è già da un po' che ci siamo in un certo senso adattati a questo nuovo trend e cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Allora, Gianluca Vialli favorevole, invece c'è uno contrario. Contrario è Massimo Mauro. Per farsi juventino. Io onestamente no, Sky li utilizza ovviamente. Io no, io mi fido più delle persone che sono sul posto e che ho la possibilità di contattare. Non ho un buon rapporto, non mi fido molto, devo dire la verità, di un posto dove tu puoi essere un'altra persona e dire quello che ti pare su tutto e tutti. Io non mi fido per niente, preferisco il contatto umano ancora, telefonare almeno la voce in questo caso dei miei colleghi in Brasile che mi dicono quello che succede. Allora, Vialli favorevole ai social network, Mauro contrario. Giuseppe, tu come ti comporterai in questi giorni di mondiali, in particolare appunto con i social come fonte, perché per i giornalisti sono anche questo. I social sono fondamentali ormai nel racconto dello sport e del calcio, ancor più che in altri mondi. Credo che abbia ragione Vialli tra i due, e cioè che ormai i social sono diventati l'unica vera fonte da cui puoi prendere la verità dei calciatori, a meno che tu non riesca ovviamente a frequentarli di persona con un'intervista o con una conoscenza diretta, perché hanno abbattuto la barriera che invece c'è sempre stata negli ultimi anni, quella barriera che mediava troppo tra quello che i calciatori e gli sportivi in genere avevano in testa e quello che poi invece arrivava al pubblico. I social hanno totalmente abbattuto questa barriera e secondo me hanno in parte penalizzato qualcuno, ma qualche calciatore, ma per la gran parte dei casi li hanno invece resi molto più simpatici di prima. Radio Tube. Rieccoci insieme per la seconda parte del Radio Tube della domenica. Daniele, non abbiamo dato i nostri account. Ah, quest'oggi non ce lo chiede l'Europa, è il nuovo slogan per dare gli account. L'account che ci chiede l'Europa è @MartaCagnola, @DiBellasio, l'hashtag cancelletto Radio Tube. Adesso viene una parte veramente molto bella. Allora, io ve lo dico, noi abbiamo parlato dei mondiali, per chi per caso avesse acceso la radio, beh, insomma, a parte che può recuperare anche la prima parte con il podcast. Che domani. Poi, domani sì. È abbiamo online. Parlato con Giuseppe De Bellis, abbiamo, che sta andando in edicola e in libreria con una rivista letteraria culturale, ma di calcio. E io festeggio sempre tutte le nuove nascite in edicola, anche quella del giornale di Barbara D'Urso. Io sono proprio contenta. È nato un giornale? Sì, è fatto una sua rivista. Io sono contenta ogni volta che arriva un nuovo giornale in edicola. Sì. Ma torniamo ai mondiali. Abbiamo sempre in linea Giuseppe De Bellis, che tra poco io vorrei stimolare. Mi piace questo verbo oggi. Sì. Su questa riflessione. La nostra generazione è quella dei bambini. Quando un discorso inizia con la nostra generazione hai già paura. Quelli che erano bambini quando l'Italia l'altra ha vinto i mondiali dell'82. I mondiali sono i mondiali dell'82 e quei mondiali sono Paolo Rossi. Qualche sera fa, guardando su Sky le storie dei mondiali, la facevo vedere a mio figlio di 5 anni e mezzo, che subito ha capito tutto, perché ha detto: ma questo Paolo Rossi non sembra forte, però poi segna sempre lui. Hai visto? Che è esattamente la sintesi dell'Italia, dei mondiali del 82, forse dell'Italia in genere. In genere. Quindi tu cosa hai fatto? Quindi, eravamo alla presentazione della squadra Sky dei mondiali con questo squadrone di commentatori. Io mi sono molto emozionata perché per la prima volta nella mia vita ho incontrato Paolo Rossi. E non ho potuto non chiedergli, cioè, quando si avvicina un mondiale, cioè per noi è sempre emozionante, è emozionante per noi da spettatori, chissà quanto è emozionante per qualcuno che ha calpestato quell'erba. E sentite cosa ha risposto Paolo Rossi. No, soprattutto per chi del mondiale ha ha fatto la vita, diciamo la carriera sportiva più importante, perché i miei mondiali sono legati alle storie più belle mie personali. Io non riesco a immaginarmi nessun'altra maglia rispetto alla maglia azzurra, perché dalla maglia azzurra ho avuto veramente tutte le più grandi soddisfazioni, sia all'esordio in Argentina 78 che in Spagna 82 quando abbiamo vinto. E quindi ogni volta che c'è un campionato del mondo per me è qualcosa, mi suscita dentro sempre, a parte i ricordi fantastici, ma sono delle emozioni che ripercorrono ogni volta. E quindi anche stavolta, poi è strano perché il mondiale che è concentrato in un mese, in 40 giorni, ma però è l'avvenimento più importante per tutti, insomma, anche per chi non si occupa di calcio, anche per chi non è appassionato di calcio. Anche per le donne? Anche per le donne, tantissime donne, è così. Cioè io ho tantissime persone che durante l'anno il calcio lo guardano poco, però quando ci sono i mondiali, ci sono le partite dei mondiali. Io quando ero bambino mi ricordo, mi mettevo, cioè avevamo un salottino, c'era mio nonno, era un rito proprio, arrivavano gli amici da fuori, le partite si guardavano tutte insieme, cioè sto parlando degli anni 70, sto parlando. E adesso poi col fatto che la televisione è cresciuta, sono cresciuti i mezzi di informazione, insomma i media, tutto quanto, in maniera esponenziale è cresciuto tutto e quindi siamo lì che li viviamo sempre con grande trepidazione, insomma. Confronto sì. A quei mondiali in cui ci si trovava tutti a casa tua, come no, dicevi. Non c'erano i computer, i telefonini, cose. Non adesso esisteva. Twittano tutti, tu che farai? Seguirai qualcosa? Io anch'io twitto, insomma, ognuno, voglio dire, bisogna adeguarsi ed è giusto che sia così, insomma, sì. Le notizie oramai si raccolgono ovunque, no? E soprattutto perché c'è questa fame di notizie e ti arrivano subito, tutti i colleghi immediatamente ti arriva la notizia in tempo reale, questo è un vantaggio enorme, però cioè, le partite come si vedono allo stadio non si vedono da nessun'altra parte, questo, l'atmosfera che si respira dentro a uno stadio è unica, poi c'è il piacere di vederla anche a casa con gli amici, la famiglia, con tutti, questo sì, però lo stadio è un'altra cosa. Vabbè, io prima o poi una volta nella vita una partita di un mondiale qualsiasi partita l'andrò a vedere allo stadio, prima o poi, chissà, insomma a Qatar sarà un po' difficile, però chissà. Paolo Rossi è un bel simbolo, eh? Eh sì, è un bel simbolo, con le braccia lì alzate. Giuseppe, che cos'è Paolo Rossi? Paolo Rossi è un personaggio letterario, cioè va benissimo per 11. Va benissimo per 11, ci fa ricordare di quella splendida emozione, anche se io sono un fan del mondiale del 2006, non vorrei spezzare questo incantesimo sull'82. No, ma voglio argomenti, il mondiale di Lippi, cioè il mondiale bistrattato. No, perché io un'altra, dimmi. Sono convinto di un'altra cosa, è che il mondiale dell'82 è stato sicuramente eccezionale. Io avevo 5 anni, quindi è il primo ricordo che mi lega al mondo del calcio. Però sono convinto che tutta la forza del Mondiale dell'82 non sia stata soltanto nella straordinaria vittoria dell'Italia, ma nel fatto che tutti quelli che poi hanno guidato questo paese, che continuano a guidare questo paese, erano ragazzi in quegli anni e quindi ricollegano il momento più felice della loro vita a quel mondiale e quindi si è sviluppata una retorica che va oltre la bellezza di quel mondiale. Credo che il 2006 sia stato un po' bistrattato perché è troppo contemporaneo, ma che invece tra 20 anni i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri fratelli minori ricorderanno quello come un mondiale straordinario. Senti Giuseppe, sui social network nell'ultimo periodo, per passare dai mondiali a un campionato che so per certi versi ti senti molto vicino, sui social network è successa una cosa particolare, c'è stata una storia legata alla squadra di Bari, la Bari. La mia Bari. La tua Bari. Intanto io ho scoperto che si c'è la Bari e non lo sapevo. Ecco, sentiamo, allora, ci racconta. No, qui c'è da fare una... sono molto contento di poterne parlare, perché si dice o il Bari o la Bari. Uh-huh. Si diceva la Bari fino agli anni 50, poi l'evoluzione del calcio e anche del linguaggio ha spostato, diciamo, il genere dal femminile al maschile ed è diventato il Bari, fino a quando si è recuperato diciamo a metà degli anni 2000 si è recuperato un po' per come vezzo, un po' anche perché c'era una canzoncina che si cantava nella curva del Bari che ripescava il la come articolo, poi è diventato un fenomeno, come dicevate voi, un fenomeno social. Comprate la Bari, e ovviamente noi che baresi lo siamo stati orgogliosi di tutto questo. Cioè, è stato un fenomeno incredibile. Diciamo un gradino sotto l'hashtag Amala, un gradino sotto. Però va riconosciuto che è stata una storia straordinaria. Ma secondo te ha avuto effettivamente un effetto di volano che poi ha portato, effettivamente poi c'è stato qualcuno che ha comprato la Bari, insomma c'è stata un'evoluzione societaria. Secondo me è stato Rocco Siffredi, secondo me è stato il video di Rocco Siffredi. Io non lo volevo dire Rocco Siffredi, lei lo voleva addirittura mostrare alla radio il video, diciamo, che sì, però si poteva. Sì. Il video di Rocco Siffredi è sicuramente il punto più alto di quel grandissimo fenomeno, però secondo me in questa storia c'è davvero uno spaccato del paese, perché in realtà il fenomeno è stato creato dalle persone più insospettabili, cioè da due curatori fallimentari. Il curatore fallimentare è il burocrate per eccellenza, se ci pensate. Hanno preso in mano la società e con due giocatori hanno cercato di creare un po' di entusiasmo attorno alla squadra. I giocatori giovani hanno suggerito di utilizzare i social network e questi due signori sessantenni, appunto oscuri per tutta la vita, hanno accettato e hanno sponsorizzato questa iniziativa, che è diventata poi quel fenomeno incredibile che è dilagato sui social e che poi ha spinto la gente ad andare allo stadio, perché poi si pensa che i social allontanino la gente dalla vita reale, invece in questo caso l'hanno avvicinata, perché hanno portato la gente allo stadio, 35-40 mila persone allo stadio, che in Serie B sono dei numeri mostruosi, e secondo me questo ha incentivato moltissimo l'acquisizione da parte di un gruppo, in questo momento ancora fantomatico, ma comunque di un gruppo di imprenditori che hanno speso quasi 8 milioni per rilevare questa squadra di Serie B, che ha fatto un'impresa anche sportiva, perché è passata dal quintultimo posto al sogno della Serie A. Io vorrei salutarvi ancora con Paolo Rossi per un motivo molto semplice, perché questi mondiali saranno anche dal punto di vista letterario molto particolari per il luogo in cui si svolgono, il Brasile. Ci sarà un modo di raccontare il Brasile? Beh, l'abbiamo chiesto proprio a Paolo Rossi. Nel Brasile si respira calcio. Io sono stato lo scorso anno, appena partita la Confederation Cup, io ogni tanto aprivo la televisione, guardavo, c'era una televisione che 24 ore al giorno davano informazioni sul calcio, sulla nazionale brasiliana. Cioè lì vivo ogni minuto, è vissuto in maniera incredibile. C'è un proverbio che dice che il calcio l'hanno inventato gli inglesi, ma l'hanno perfezionato poi i brasiliani. Quindi questo dà l'idea di che paese sia da un punto di vista calcistico. E quindi sarà soprattutto bello per quello, secondo me, per il clima, per l'aria, per tutto quanto, insomma. Poi ci saranno anche problemi di carattere sociale, come abbiamo già visto, perché no, ci saranno anche quelli probabilmente, però io spero non vadano ad inficiare un campionato del mondo di calcio, insomma, che niente a che vedere, insomma, con i problemi di ogni paese. Beh, insomma, io non vedo l'ora che ci sia questo mondiale. Chissà chi lo vince, Giuseppe, chi lo vince? Io dico che alla fine lo vincerà la Spagna, che in questo momento è la nazionale tra quelle favorite, la meno favorita, e soprattutto in Spagna sono molto scettici rispetto all'idea di compiere la storia. Quindi il 6 di giugno c'è 11, una cosa che c'è nel primo numero di 11, velocissimo? Una bellissima conversazione con Paolo Sorrentino sul calcio, come ha vissuto da ragazzo e come vive oggi il calcio Paolo Sorrentino. Gliel'abbiamo chiesto ed è venuto fuori una chiacchierata molto molto bella. Bene, non vedo l'ora. E purtroppo il nostro tempo per RadioTube della domenica è finito, però parleremo ancora di calcio su Radio 24, cioè a bordo campo con Dario Ricci alle 16:30, perché è il momento di avvicinarci ancora ai mondiali con il nostro inviato Dario Ricci, poi insomma tutti convocati i nostri appuntamenti di Radio 24 con lo sport. Intanto ringrazio ancora Chiocciola Giù De Bellis, Giuseppe De Bellis, per essere stato con noi. Allora in bocca al lupo per questa nuova avventura in edicola. Grazie Giuseppe. Grazie a voi, crepi il lupo. Forza Bari, direi. Forza Bari, forza la Bari, forza. E noi ci ritroviamo sabato prossimo alle 18. Ringraziamo, Valeria Bernardi in regia. Ci ritroviamo il prossimo weekend ancora con RadioTube.